Innanzitutto è una comunità cittadina che si dice pronta ad accoglierli e c'è tutto il tessuto sociale, cooperativo delle organizzazioni, oltre quello politico militante che si adopera, come sempre è accaduto quando ci sono stati sbarchi a Napoli, perché Palermo e i porti siciliani erano sovraffollati, quindi si logisticamente si fosse preferito andare un po' più a nord, c'è sempre stata una grossa accoglienza, un'accoglienza umana che è anche difficile da organizzare, perché poi i napoletani in questo sono particolarmente generosi, un surplus di magliette, pantofole e altri beni che erano enormemente superiori alla necessità e richiesta, perché poi questa è una città che con l'alterità ha sempre avuto un confronto, non sempre sereno, ma sempre avuto un confronto, quindi si sa rapportare quando una persona è in difficoltà in mare, per una città di mare è logico andarla a raccogliere. Fa parte proprio della legislazione del mare, sia a livello di codici, ma anche quella legislazione, diciamo, condivisa, umana, che fa mettere insieme codici che sono sempre condivisi al di là della scrittura legislativa, diciamo così. Il problema è quando i due codici non vanno più in sincro e quando codice della politica perde in un certo senso l'umanesimo che dovrebbe caratterizzarla, e quindi nel conteggio politico le vite umane sono sacrificabili. Purtroppo in Occidente e in Italia adesso stiamo assistendo a questo passaggio, sembra, e allora c'è uno scontro istituzionale fra le città e fare notare tutte le città del meridione, e secondo me non è solo un motivo geografico, ma anche un motivo politico. Due porti importanti d'Italia, che sono quelli di Genova, dove la Lega è in maggioranza col sindaco Bucci, e soprattutto il porto di Livorno, dove credo ci sia più centralismo democratico dei 5 Stelle che nel PC degli anni 70, tacciono. Tacciono clamorosamente. E a livello istituzionale cosa potrà succedere? Perché giustamente qui abbiamo un ministero che dice tutti i porti d'Italia chiusi e dei sindaci, De Magistris in testa, che dice il mio lo apro. Ma in questo vorrei dire che non è solo un problema italiano, ma è un problema europeo. È un problema europeo perché se andiamo a vedere i profili Facebook e Twitter del sindaco di Barcellona, c'è anche, non lo portano i media italiani, ma c'è quella solidarietà e anche quella disponibilità. Quindi c'è in Italia nel meridione, e questo dovrebbe far capire un po' politicamente come il voto 5 Stelle sia un voto di protesta antisistema, ma poi bisogna vedere nella pratica se realmente ci sono le cittadinanze ad accompagnare questi primi cittadini, quanto questo voto continuerà ad accompagnarli. Però c'è una rete di sindaci del Mediterraneo, dove in Italia si va dai movimentisti come il sindaco di Messina, che speriamo sia confermato in queste ore, e anche i sindaci della sinistra del PD come Orlando, fino al sindaco di Barcellona. C'è una rete pronta a fornire un panorama istituzionale diverso. Purtroppo la legislazione fa sì che i porti non siano governati, c'è un'ordinanza del sindaco di Napoli che dice che non debbano sostare nella rada del porto di Napoli sommergibili nucleari o navi con testate nucleari. È costantemente disattesa dalla NATO questa ordinanza, ma per carità è un'ordinanza di parere, non è un'ordinanza vincolante. Fatto sta che però poniamoci anche come la maggioranza di governo si pone nei confronti della NATO: per le navi nucleari non è un problema, la logistica c'è, per vite umane è un po' più complicato adesso ospitarle. Anche questo carattere va tenuto in considerazione, insomma ci stiamo allineando con i paesi dell'est Europa sempre a tempo scaduto. Più. Un'ultima domanda, possiamo ritenere questa una prima occasione di resistenza reale, di opposizione al nuovo governo Seferovic, rappresentato bene dal ministro dell'interno Salvini? Guardi, sì, sicuramente sì, perché non è un capriccio delle istituzioni, ma è un tessuto sociale. In queste circostanze non vorrei dire, ma è come se l'istituzione si adeguasse al sentire della cittadinanza, o quantomeno della cittadinanza più attiva, quella che lavora a risolvere i problemi, quella sorta di cooperazione che ormai non è solo più internazionale, perché le diseguaglianze c'erano anche su un tessuto interno. Emergency c'ha una struttura ospedaliera a Napoli, nella periferia, così come l'ex UPG che ha sempre dato disponibilità del proprio ambulatorio, che è un ambulatorio fatto per chi è escluso dal servizio sanitario regionale, quindi migranti ma anche molti cittadini napoletani, tutto un personale medico e paramedico che ha dato disponibilità a essere ingaggiato a titolo volontario nell'accoglienza di questi migranti. Quindi innanzitutto è un'opposizione sociale, perché è fatta dalla società, che poi ci sia anche un'opposizione istituzionale, questo è da vedere. Io osservo la composizione politica dei sindaci che si sono generosamente dichiarati favorevoli, vanno da sindaci movimentisti e sindaci della sinistra del PD, insieme alla sindaca di Barcellona, che non possa essere questa in un certo senso la rimappatura di una proposta alternativa. Mi dispiace che Bologna non è il mare, altrimenti sentiremo il sindaco di Bologna.